Capitolo 8. Quasi subito dopo gli eventi raccontati nel precedente capitolo, partii per il mio secondo viaggio negli Stati Uniti. Fui contenta di trovare un movimento suffragista assai vivo ed evoluto, dove prima c'erano solo persone impegnate in teorici discorsi accademici in favore dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne. La mia prima conferenza, tenutasi a Brooklyn, fu pubblicizzata da donne sandwich che giravano per le principali strade della città, più o meno come facevano le nostre attiviste in Inghilterra. Le assemblee di strada, scoprì, erano diventate una pratica quotidiana a New York. La Women's Political Union aveva adottato una linea politica elettorale e nei miei spostamenti per tutto il paese, fino alla costa occidentale, incontrai donne consapevoli della necessità di un'azione politica al posto di una mera discussione sul suffragio. Il mio secondo viaggio in America, come il primo, è offuscato nella memoria dal dolore. Subito dopo il mio ritorno in Inghilterra, un'adorata sorella, Mary Clark, morì. Mia sorella, appassionata suffragista e valorosa collaboratrice della WSPU, era tra le donne che furono oltraggiosamente maltrattate nella piazza del Parlamento durante il Black Friday. Era anche una delle donne che pochi giorni dopo testimoniarono la loro protesta contro il governo, scagliando pietre alle finestre di una residenza ufficiale. In conseguenza di tale gesto, fu mandata a Holloway per una detenzione di un mese. Rilasciata il 21 dicembre, chi la conosceva bene capì immediatamente che la sua salute aveva sofferto moltissimo per la tremenda esperienza del Black Friday e quella successiva del carcere. Morì all'improvviso, il giorno di Natale, gettando nella più profonda costernazione tutte le sue colleghe. La sua non fu l'unica vita sacrificata agli eventi di quella giornata. Altri decessi si susseguirono, per lo più causati dall'eccessiva sollecitazione cardiaca. La signorina Ernia Williams morì il 2 gennaio 1911 per arresto cardiaco. La signorina Cecilia Horsley Haig fu un'altra vittima. Nel suo caso, gli abusi del Black Friday svilupparono una penosa malattia che culminò dopo un anno di enormi sofferenze nella sua morte, il 21 dicembre 1911. Non è possibile pubblicare una lista completa di tutte le donne che sono morte o sono rimaste menomate a vita nel corso delle agitazioni per il suffragio in Inghilterra. Per tanti casi non sono mai stati resi pubblici tutti i dettagli e io non mi sento di avere il diritto di raccontarli qui. Un caso molto noto, ormai di dominio pubblico, è quello di Lady Constance Lytton, sorella del conte di Lytton, che fu anche presidente del Conciliation Committee. Lady Constance era stata 2 volte in prigione nel 1909 in conseguenza di attività a favore del suffragio e in entrambe le occasioni le erano stati concessi privilegi speciali tenendo conto del suo rango e dell'influenza del suo casato. Malgrado le sue proteste e le sue sincere suppliche di riservarle lo stesso trattamento delle altre detenute suffragiste, le snobbistiche e pavide autorità insistettero nel mantenere Lady Constance in cella d'ospedale e furono pronte a rimetterla in libertà prima dell'estinzione della pena. Questa misura fu presa con la scusa della sua salute cagionevole, sebbene fosse vero che soffrisse di una disfunzione valvolare al cuore. Indignata per l'ingiustizia compiuta nei confronti delle sue compagne a causa di questa discriminazione, Lady Constance Lytton fece uno dei gesti più eroici che si siano registrati nella storia del movimento suffragista. Si tagliò i bellissimi capelli e si travestì indossando abiti scadenti e trasandati e col nome di Jane Wharton partecipò a una dimostrazione a Newcastle, subendo ancora un arresto e una carcerazione. Questa volta le autorità la trattarono come una detenuta comune. Senza controllarle il cuore o farle un adeguato esame medico, la sottoposero all'orrore dell'alimentazione forzata. Per via della sua esile costituzione, ebbe ogni volta spaventosi conati di vomito e quando in un'occasione i vestiti del medico si sporcarono, lui la colpì violentemente sul viso. Il trattamento fu ripetuto fino a quando si scoprì la vera identità della detenuta e così fu rilasciata subito, naturalmente, ma non si riprese mai del tutto da quell'esperienza e oggi è un'invalida permanente. Voglio dirvi chiaro e tondo che quegli amici esterni, magari mossi da buone intenzioni, i quali sostengono che abbiamo patito gli orrori della prigione, dello sciopero della fame e dell'alimentazione forzata, perché desideravamo ergerci a martiri della causa, si sbagliano di grosso. Non siamo mai andate in carcere perché volevamo martirizzarci. Ci siamo andate perché volevamo ottenere il riconoscimento di essere trattate come cittadine. La nostra volontà era di rompere le leggi per costringere gli uomini a concederci il diritto di fare le leggi. È in questo modo che gli uomini si sono guadagnati il loro diritto di cittadinanza. Dice bene Mazzini che la via della riforma è sempre passata dalla prigione. L'esito delle elezioni generali che si tennero nel gennaio del 1911 fu che il Partito Liberale si riconfermò al potere. Il Parlamento si riunì il 31 gennaio, ma la seduta fu aperta formalmente soltanto il 6 febbraio con il discorso del re. Il programma della seduta comprendeva la misura sul veto dei Lord, l'Home Rule, gli emolumenti dei parlamentari e l'abolizione del voto multiplo. Furono anche menzionate l'assicurazione agli invalidi e alcune modifiche al vecchio progetto di legge sulle pensioni. Il suffragio femminile non fu menzionato. Fummo comunque eccezionalmente fortunate, visto che i primi tre posti nella votazione erano stati assegnati al Conciliation Committee. Il signor Phillips, un parlamentare irlandese, doveva parlare per primo, ma dal momento che il partito irlandese aveva deciso di non presentare alcun progetto di legge per quella seduta, cedette il posto a Sir George Kemp, il quale annunciò che avrebbe sfruttato la sua posizione per aprire un dibattito in seconda lettura sul nuovo Conciliation Bill. Il vecchio progetto si chiamava un progetto di legge per dare il voto alle donne residenti, un titolo che rendeva difficile ogni emendamento. Il nuovo progetto acquisì il titolo più flessibile di un progetto di legge per conferire il voto parlamentare alle donne, il che tagliava fuori una delle più plausibili obiezioni di Lloyd George. La clausola del minimo di 10 sterline fu omessa, eliminando così un'altra obiezione, quella sulla possibilità di votazione manipolata, riguardante cioè il caso di un uomo ricco che conferisce il diritto di voto ad esempio alle figlie, col semplice espediente di intestare a loro nome, quote di una sua proprietà. Il Conciliation Bill ora recitava: 1. Ogni donna in possesso della qualifica di proprietaria immobiliare, nei termini stabiliti dal People Act 1884, sarà autorizzata a registrarsi come elettrice e, una volta registrata, a votare nella contea o nel distretto in cui sono locate le sedi della qualifica. 2. Ai fini di questa legge, una donna non potrà essere squalificata dal matrimonio nell'essere registrata come elettrice, purché moglie e marito non siano ambedue registrati come elettori nello stesso distretto parlamentare o nella medesima provincia della contea. Questo progetto di legge incontrò un gradimento ancora più alto del precedente, in quanto si riteneva portasse voti a quei parlamentari i quali sostenevano che il provvedimento originario non fosse all'altezza di una vera democrazia. Ciò nonostante, il primo ministro dimostrò fin dall'inizio l'intenzione di opporvisi, come aveva fatto per tutte le precedenti misure in maniera di suffragio. Annunciò che ogni venerdì, fino al giorno di Pasqua, e anche tutti i martedì e i mercoledì, solitamente destinati a ricevere i progetti di legge dei parlamentari non governativi, sarebbero stati occupati dall'esame dei provvedimenti del governo. In pratica, nessun liberale alzò la voce contro questa decisione arbitraria. Ai parlamentari irlandesi, anzi, piaceva, poiché dava un vantaggio all'Home Rule. I parlamentari laburisti parevano soddisfatti e il caso della coalizione rimane indifferente. Un deputato liberale addirittura si alzò e ringraziò il primo ministro per la gentilezza con cui aveva portato a compimento il processo di imbavagliamento. Ci fu qualche accenno di lotta da parte dell'opposizione, ma l'indignazione dei conservatori fu attenuata dalla riflessione che il precedente, in tal modo stabilito, sarebbe tornato a loro vantaggio una volta che fossero saliti al potere. Sir George Kemp annunciò a quel punto che avrebbe fissato al 5 maggio la data per la seconda lettura del Conciliation Bill e i sostenitori del progetto di legge, secondo le rispettive convinzioni, si misero al lavoro per promuovere i suoi interessi. L'opinione della WSPU era che il governo di Asquith non avrebbe mai consentito al progetto di legge di passare, a meno che non fosse stato costretto, e quindi adottammo i nostri metodi per garantirci la definitiva promessa che il governo avrebbe dato la precedenza al progetto di legge. Ad aprile di quell'anno si sarebbe svolto il censimento e organizzammo una resistenza al censimento da parte delle donne. Secondo la nostra legge, il censimento a scopi statistici nell'intero regno si dovrebbero effettuare ogni 10 anni in un solo giorno designato. Il nostro piano era diminuire il valore del censimento a scopi statistici, rifiutandoci di rispondere alle domande. Si prospettavano due forme di resistenza. La prima e più importante era la resistenza diretta dei residenti che si sarebbero rifiutati di riempire i relativi campi nei moduli del censimento. Un tale gesto sarebbe sfociato in una multa di 5 sterline o in un mese di reclusione e quindi richiedeva una certa dose di coraggio. La seconda forma di resistenza era l'evasione, andarcene lontano da casa per tutto il periodo in cui gli operatori raccoglievano i dati del censimento. Facciamo l'annuncio di questo piano e immediatamente ci fu, da una parte, una splendida risposta delle donne e dall'altra un coro di disapprovazione dell'inorridito pubblico conservatore. Il Times diede voce a questa disapprovazione in un articolo principale, a cui replicai fornendo le ragioni della nostra protesta. Il censimento, scrissi, è un conteggio del popolo. Finché le donne non conteranno come popolo ai fini della rappresentazione nei consigli del paese, così come ai fini delle tassazioni, noi ci rifiuteremo di essere conteggiate. Per quanto riguarda le leggi fatte dagli uomini, senza l'assistenza delle donne, per la protezione di donne e bambini, ho una sensazione particolare. Grazie alla mia esperienza di tutrice della Poor Law e di archivista delle nascite e delle morti, so bene quale ridicolo, per non dire tragico, livello di protezione offrano queste leggi. Si prende ad esempio il tanto celebrato Children's Charter del 1906, il provvedimento che diede fama mondiale al signor Lloyd George. Si potrebbe riempire un libro intero con gli errori e l'efferatezza di quella legge, obiettivo della quale sarebbero la salvaguardia e l'arricchimento della vita del bambino. Una peculiare caratteristica della legge è quella di far ricadere gran parte della responsabilità dell'incuria verso i bambini sulle spalle delle madri, le quali, per la legge inglese, non godono di diritti in quanto genitrici. Due o tre casi clamorosi vennero alla luce in questo periodo e offrirono alla resistenza contro il censimento un'ulteriore giustificazione. Il caso di Annie Woolmere fu davvero pietoso. Fu arrestata e reclusa a Holloway per 6 settimane per aver trascurato i figli. L'evidenza dimostrò che la donna viveva con il marito e i figli in una miserabile baracca, che sarebbe stato impossibile mantenere pulita anche se avessero avuto l'acqua in casa. Quella povera anima, di salute cagionevole e indebolita dalle privazioni, doveva trasportare l'acqua che le serviva da una lunga distanza. I figli, così come la casa, erano molto sporchi, questo è vero, ma i bambini erano ben nutriti e trattati con riguardo. Il marito, un bracciante, fuori per lavoro la maggior parte del tempo, testimoniò che la moglie moriva di fame pur di dar da mangiare ai figli. Eppure aveva violato i termini del Children's Charter e quindi andò in galera. Sono felice di poter dire che, grazie agli sforzi delle suffragiste, fu assolta e ottenne un'abitazione migliore. Un altro caso fu quello di Ellen Conroy, che fu accusata di abitare una squallida stanza col marito e 7 figli, il più piccolo nato da appena un mese. Stando alla nuova legge, la donna non poteva tenere il bimbo a dormire nel suo letto per tutta la notte, eppure parte dell'accusa riguardava il fatto che il bambino era stato trovato a dormire in uno scatolone su della paglia umida. Certamente avrebbe preferito una culla o anche solo uno scatolone pieno di paglia asciutta, ma le condizioni disperate rendevano impossibile la culla e lo stato dell'abitazione inumidiva costantemente la paglia. Entrambi i genitori in questo caso furono messi in carcere per 3 mesi ai lavori forzati. Il magistrato fece casualmente notare che la casa in cui questa povera gente viveva era stata già condannata 2 anni prima, ma qualche rispettabile proprietario stava ancora incassando la pigione. Un'altra madre indigente, sfrattata da casa perché non riusciva a pagare l'affitto, portò i suoi 4 figli in aperta campagna e quando fu trovata stava dormendo insieme a loro in una cava di ghiaia. Fu mandata in prigione e i 4 bambini andarono al ricovero dei poveri. Queste madri sfortunate, logico risultato dello stato di soggezione delle donne, sono già abbastanza per giustificare ogni forma di disprezzo nei confronti di un governo che nega alle donne il diritto di scegliersi liberamente il proprio destino. Non essendo giunta alcuna promessa dal primo ministro all'arrivo di aprile, mettemmo in scena con grande successo la nostra resistenza al censimento. Migliaia di donne in tutto il paese respinsero o si sottrassero alle risposte. Io restituì il mio modulo con le parole «Niente voto, niente censimento» scritte sopra e altre donne seguirono l'esempio con messaggi simili. Una donna riempì gli spazi vuoti con dettagliate informazioni sul suo unico servitore uomo e aggiunse che in casa sua c'erano molte donne, ma non altro personale. A Birmingham 16 donne ricche stiparono le loro abitazioni di donne che si opponevano al censimento. Dormivano sul pavimento, sulle sedie, sui tavoli e perfino in bagno. Il capo di un grande istituto scolastico aprì la porta dell'edificio a 300 donne. In altre città molte donne tennero delle feste notturne per amiche che desideravano restare lontane da casa. In altri luoghi, delle case vuote vennero affittate per la notte dalle dimostranti che si coricavano sulle assi nude. Alcuni gruppi di donne noleggiarono dei carrozzoni da gitani e passavano la notte nella brughiera. A Londra organizzammo un grande concerto alla Queen's Hall la notte del censimento. Molte di noi passeggiarono attorno a Trafalgar Square fino a mezzanotte e poi ripararono alla pista di pattinaggio di Elvick, dove ci divertimmo fino alla mattina. Alcune pattinarono, mentre altre stavano a guardare e ci godemmo l'eccellente musical e lo spettacolo teatrale che aiutavano a passare il tempo. Tra di noi c'erano alcune delle stelle più brillanti del mondo del teatro, tutte vogliose di dare il proprio contributo. Essendo domenica notte, la presidente dovette invitare ogni artista a fare un discorso anziché una canzone o un numero teatrale. Un ristorante aperto tutta la notte nelle vicinanze fece grandi affari, nel complesso le dimostranti se la spassarono. Lo Scala Theater fece da scenario a un altro intrattenimento notturno. C'era grande curiosità per vedere cosa si sarebbe inventato il governo per punire le donne ribelli, ma il governo si rese conto dell'impossibilità di intraprendere azioni punitive e il signor John Burns, che in quanto capo dell'ufficio governativo locale era responsabile del censimento, annunciò che avevano deciso di trattare la questione con magnanimità. Il numero dei moduli non compilati, dichiarò, era insignificante, ma tutti sapevano che questo era esattamente l'opposto della realtà. Il Conciliation Bill fu discusso il 5 maggio e superò la seconda lettura con un'ampia maggioranza di 137 voti. E ora il pubblico e una parte della stampa si unirono per chiedere con decisione che il governo cedesse all'indubbio volere della Camera e desse quindi il via libera al progetto di legge. Il Conciliation Committee inviò una delegazione di parlamentari al primo ministro per ricordargli della promessa preelettorale secondo cui la Camera dei Comuni avrebbe dovuto avere l'opportunità di occuparsi dell'intera questione del suffragio femminile, ma riuscirono soltanto a farsi assicurare che il tema veniva tenuto sotto osservazione. Verso la fine del mese fu dato l'annuncio alla Camera che il governo non avrebbe trattato il tema durante quella seduta, ma dal momento che il nuovo progetto di legge rispettava le condizioni poste dal primo ministro ed era aperto a eventuali modifiche, il governo riconobbe come proprio dovere garantire ogni mezzo al progetto in una successiva seduta dell'attuale Parlamento. Sarebbero stati pronti per la sessione successiva, quando il progetto di legge sarebbe stato nuovamente sottoposto a una seconda lettura, sia per quanto riguardava l'ottenimento di un buon posto nella votazione, sia, se quello non si verificava, per la garanzia di una giornata lavorativa del governo da destinare a quell'obiettivo entro una settimana, che ritenevano essere un periodo di tempo ragionevole, come suggerito dai promotori per farlo passare alle fasi successive. Tale promessa fu fatta per dissuadere la WSPU dall'organizzare una dimostrazione in concomitanza con l'incoronazione del re. Kay Reardy domandò se il governo, tramite una chiusura o altro, era certo di far passare il progetto di legge entro una settimana e il primo ministro rispose: «No, non sono in grado di dare assicurazioni in questo senso. In fondo è un problema di importanza fondamentale». Questa replica diede l'impressione che la promessa del governo non valesse praticamente nulla. Il Conciliation Committee si era inoltre reso conto della possibilità che il progetto di legge venisse depennato e Lord Lytton scrisse al signor Asquith chiedendogli rassicurazioni che le agevolazioni offerte riguardassero non il dibattito accademico, ma l'effettiva opportunità di far avanzare il progetto. Richiese inoltre che l'intervallo di una settimana che era stato proposto non fosse preso alla lettera, ma che, sempre ammesso che la fase della commissione terminasse per tempo, fossero messi a disposizione ulteriori giorni per le fasi del rapporto e della terza lettura. Fu anche richiesta la ragionevole possibilità di utilizzare la chiusura. Alla lettera di Lord Lytton, Asquith rispose così: «Mio caro Lytton, in risposta alla vostra lettera sul tema del progetto di legge sull'emancipazione femminile, vi rimando ad alcune osservazioni recentemente fatte in un discorso al National Liberal Club da Sir Edward Grey, che ben esprimono l'intento del governo. Ne consegue, per rispondere alle vostre specifiche domande, che la settimana offerta sarà interpretata con ragionevole elasticità, che il governo non porrà ragionevoli ostacoli all'appropriato utilizzo della chiusura e che se, come voi suggerite, il progetto di legge arriverà in commissione nei tempi previsti, i giorni supplementari richiesti per il rapporto e la terza lettura non saranno negati. Il governo, pur diviso nelle opinioni circa il progetto di legge, è unito nella determinazione a dare seguito non solo alla lettura, ma anche nello spirito alla promessa relativa alle agevolazioni che io stesso ho fatto per conto del governo nelle ultime elezioni generali. Vostro Esquit. Finora scettica, la WSPU adesso si convinse della sincerità del governo nel promettere di concedere tutte le agevolazioni al progetto di legge entro l'anno successivo. Organizzammo un gioioso raduno di massa alla Queen's Hall e io dichiarai nuovamente che la guerra contro il governo stava volgendo al termine. La nostra nuova linea politica partì dall'inaugurazione di una grande campagna per il periodo di vacanza, con l'obiettivo di rendere praticamente certa la vittoria nel 1912. Occorreva stimolare gli elettori e spingere i parlamentari a tenere fede ai patti. Le donne dovevano organizzarsi per far sì che la questione, che interessava in maniera vitale il benessere sociale del paese, venisse posta al di sopra di tutto. Io scelsi la Scozia e il Galles per svolgere il mio operato durante il periodo di vacanza. Posso dire che la mia fiducia era pienamente condivisa dalla maggioranza della gente. La fiducia nella promessa del signor Asquith si poté chiaramente vincere da un editoriale pubblicato su The Nation, che recitava: nel momento in cui il primo ministro ha firmato la sincera e generosa lettera a Lord Lytton, che è apparsa sui quotidiani di sabato scorso, le donne sono diventate, a parte le formalità legali, elettrici cittadine. Per almeno 2 anni, se non di più, non è stato risparmiato nulla per dare una piena ed equa opportunità alla Camera dei Comuni di trascrivere i suoi convincimenti nel linguaggio preciso di uno statuto. Quell'opportunità è stata promessa per la prossima seduta e promessa nei termini e nelle condizioni che ne assicurano il successo. L'unica cosa, pensavamo, che dovevamo temere erano i distruttivi emendamenti al progetto di legge e della nuova linea politica che adottammo in vista delle elezioni speciali, facemmo ostruzione contro i candidati di qualsiasi partito, che si rifiutavano di promettere non solo di sostenere il Conciliation Committee nel compito di far avanzare il progetto di legge, ma anche di votare contro ogni emendamento che il Comitato avesse ritenuto pericoloso. Credevamo insomma di aver coperto ogni eventualità di disastro, ma avevamo ancora da imparare qualcosa sulla slealtà del governo Asquith e sulla sua capacità di mentire senza ritegno. Lloyd George era fin dall'inizio un nemico dichiarato del progetto di legge. Ma poiché non avevamo dubbi sulla sincerità del primo ministro, potevamo solo dedurre che Lloyd George si fosse staccato dal corpo principale del governo e si fosse autonominato leader dell'opposizione. In un discorso rivolto a un ampio gruppo liberale, Lloyd George consigliò ai parlamentari liberali di indire una votazione per un posto, per un provvedimento democratico, in modo da rinverdire la promessa del primo ministro di agevolare il progetto nella prossima seduta. In un altro paio di discorsi fece vaghe allusioni alla possibilità di presentare un diverso progetto di legge sul suffragio. La sua idea era di modificare il progetto per concedere il diritto di voto alle mogli di tutti gli elettori, rendendo cioè le donne sposate elettrici in virtù della qualifica dei mariti. L'inevitabile effetto di un tale emendamento sarebbe stato quello di far naufragare il progetto di legge, poiché avrebbe emancipato circa 6 milioni di donne, in aggiunta al 1,5 milione che già avrebbe beneficiato dei termini originari del progetto. Un ampliamento dell'elettorato tanto esteso non si era mai visto in Inghilterra. Il numero di emancipati del Reform Bill del 1832 arrivava a malapena a mezzo milione. Il Reform Bill del 1867 aprì la strada a 1 milione di nuovi elettori, quello del 1884 massimo a 2 milioni. L'assurdità della proposta di Lloyd George era tale che non la prendemmo sul serio. Non permettemmo al suo ostruzionismo di metterci in allarme fino a un giorno di agosto, quando un parlamentare gallese, Leif Jones, domandò al primo ministro dal fondo della Camera se fosse cosciente che la sua promessa di far seguito al Conciliation Bill nella prossima seduta riguardasse esclusivamente quello specifico progetto di legge e gli chiese poi di chiarire se le promesse agevolazioni sarebbero state garantite ad altri progetti di legge sul suffragio che fossero stati in grado di raggiungere la seconda lettura e fossero stati aperti a modifiche. Lloyd George, parlando a nome del governo, rispose che non si potevano concedere agevolazioni a più di un progetto di legge su uno stesso tema, ma che qualsiasi progetto in grado di soddisfare i requisiti richiesti e di raggiungere la seconda lettura sarebbe stato trattato come un impegno rientrante nei propri compiti. Sbalordito dinanzi a questa chiara evasione di una sacra promessa, Lloyd George scrisse nuovamente al primo ministro, riassumendo l'intera questione e chiedendo un'altra dichiarazione sugli intenti del governo. Quello che segue è il testo della replica del signor Asquith. 23 agosto 1911. Mio caro Lytton, non ho esitazione a dire che le promesse fatte a nome del governo di dare agevolazioni al Conciliation Bill saranno interamente mantenute, tanto nella lettura quanto nello spirito. Sinceramente vostro, Asquith. Fummo di nuovo rassicurate e la nostra fiducia nella promessa del Premier rimase intatta per tutta la durata della campagna, anche se Lloyd George continuava a lanciare segnali che le promesse di agevolazioni per il progetto di legge fossero del tutto illusorie. Non credevamo a Lloyd George e quando in America, 2 mesi dopo, mi fu domandato: quando voteranno le donne inglesi? Risposi: l'anno prossimo. Questo successe a Louisville, nel Kentucky, dove partecipai al convegno annuale della National American Women's Suffrage Association. Ricordo questa terza visita in America con particolare piacere. Fui ospite a New York del dottor John Brannan e signora, e grazie al dottor Brannan, che era capo di tutti gli ospedali della città, capì molte cose del sistema penale e della vita istituzionale in America. Visitammo il ricovero per i poveri e il penitenziario sull'isola di Blackwell e, benché mi fu garantito che questi luoghi non fossero affatto istituti modello, posso assicurare i miei lettori che sono infinitamente superiori alle prigioni inglesi, dove le donne vengono punite solo perché cercano di conquistarsi la libertà politica. Nelle carceri americane, per quanto prive di alcune cose essenziali, non ho visto celle di isolamento, né regole del silenzio, né l'aria letale della burocrazia. Il cibo era buono e vario, e soprattutto c'era un'atmosfera di gentilezza e buoni sentimenti tra i secondini detenuti che manca quasi totalmente in quelle inglesi. Ma in fondo, negli Stati Uniti, così come in altri paesi, il problema dei rapporti tra le donne non emancipate e lo Stato rimane irrisolto e insoddisfacente. Una sera gli amici mi portarono in quell'istituto cupo e tremendo, la Night Court for Women. Ci sedemmo sui banchi con il magistrato, che fu molto cortese nello spiegarci tutto. L'intera storia era straziante. Tutte le donne, con la sola eccezione di un alcolista, furono accusate di adescamento. Molte di loro erano donne per natura oneste. La situazione era disperata ed era chiaro come fossero tutte vittime di un sistema malvagio. La loro condanna era una conclusione scontata. Il magistrato disse che in molti casi il motivo del loro arrivo in quel tribunale era un motivo economico. Era davvero tragico e commovente il caso di una piccola sigaraia, la quale disse semplicemente che andava in strada dopo aver finito la giornata di lavoro, un lavoro che le fruttava 8 dollari a settimana. Non ho più potuto tenere la Night Court fuori dai miei discorsi dopo questa esperienza. Tutte le terribili ingiustizie inflitte alle donne sembravano rispecchiarsi in quel luogo. In quel viaggio mi spinsi a ovest fino alla costa del Pacifico, trascorsi il Natale a Seattle e per la prima volta vidi una comunità dove le donne e gli uomini vivevano in condizioni di perfetta uguaglianza. Fu una bellissima esperienza. Come scrissi alle nostre associate in Inghilterra, gli uomini degli stati occidentali apparivano ai miei occhi ansiosi, onesti e rudi, vogliosi di costruire una grande comunità in fretta. Ma non ho mai visto un rispetto, una gentilezza e una cavalleria più grandi verso le donne come in quello stato suffragista che ho avuto il privilegio di visitare. Devo andare un po' avanti con la mia storia, però. Fu a novembre, mentre mi trovavo a Minneapolis, che un duro colpo si abbatté sui suffragisti inglesi. Lo appresi grazie ai telegrammi inviati ai quotidiani e ai messaggi privati. Rimasi talmente spiazzata che riuscii a malapena a trovare le forze per portare a termine i miei impegni. La notizia era questa: il governo aveva mancato la parola data e aveva deliberatamente demolito il Conciliation Bill. Il mio primo pensiero, dopo aver saputo di questo atto di slealtà, fu di cancellare tutti gli impegni e tornare in Inghilterra, ma la mia decisione finale di restare si rivelò poi giusta, poiché le donne del mio paese, senza perdere un attimo di tempo, scagliarono la controffensiva, guidate dal fiuto che aveva caratterizzato ogni azione dei membri della WSPU. Non tornai in Inghilterra prima dell'11 gennaio 1912 e a quel punto grandi geste erano state compiute. Il nostro movimento era entrato in una nuova e più energica fase della militanza.